fini in pallida sta. Intanto il giorno quel vuol fare nel capire che sappia alle sue rapine e che la pronta marina scuola arrive. Solo una mano riaffermarmi può nella vacillante mio poter. Lucia, osa respingere quella mano? Ah, suora non magare. Dove incavarti e ceme sull'urna recente di cara madre, qual ora non potria volger lo sguardo? Rispettiamo un cuore e trafitto dal duol schifo e d'amore. Schifo d'amor, Lucia, la buona pampa. E favelli, come tu io frega. E tu sovristi il seduttore. Sospetto io non soltanto. Parla. E tu è nemico. Oh. Thank you. Thank you. fidata io vederti chierea. Ragion possente faccio mi trasse, pria che in ciel biancheggi l'alba novella, dalle patrie sponde lungi sarò. Quei franchi di amici sciolgo la ve, ivi trattarme dato le sorti della Scozia. Pria di lasciarti, fasto mi vecca, io sentrò pellacato a lui la destra, e la tua destra pegno, rana di pace chiederò. Thank you. possibile, vengi al dare un cuore al tuo padre, unisco il mio con tuo sposo. Su questo pezzo.